Ma sarebbe un puzzo delizioso per il mio signore. Ah, per favore, taci. Dunque, beh, che facciamo? Junkershek continua a restare in silenzio. Ma è libero? Sodoma, è libero. Vai in un giro, cerca di capire qualcosa. Con il suo equipaggiamento. Come si chiama? Sodoma è tuo. Sodoma. Penso che sia... Il corpo va in giro a vedere quello che c'è. Ok, oltre a quello che avete visto, vi si rivela l'altra metà del salone, che è del salone della piazza, no? E nella zona sud-est vi è una sorta di parco con delle sedie dove ci sono dei bardi che fanno un'esibizione di giocoleria. Mentre a nord-est vi è un altare con alcune persone intente a pregare. Cosa sente? Che preghiere sente? Così per curiosità. Ma varie. Esatto, cioè qua ci sono diverse. E torna? Sì, torna a riferirti. Ho capito. Ho detto perché è già tornato. Ok, infatti. Sembra tutto in regola. Sembra una comune e ridente cittadina. Non mi fido dell'impero. Deve aver chiamato qualcosa. Dice l'Alfing. Andiamo, signor Alfing. Andiamo a vedere chi è. Andiamo, piccolo uomo. Non sai così piccolo. Cioè, nel senso, non ti sembrerei così piccolo una volta estratta la mia spada. Le dimensioni, no? Esatto. No, guarda. Abbiamo un corvo sveglio qui. Che temperamento. Corvo a tua nonna, eh? Te calma. Ma c'è lui che anche lei già, lui c'ha il corvo e tu sei... Ah, è vero, perché... si farà un po' di confusione. Sì. Io sono il corvo, lei un corvo. Tanto antipatico. Ok, come? Stavo in simpatico. Quindi andate, cioè, a vedere, no? Sì, io tengo l'occhio. Sì, camminiamo. Come mettete il piede fuori dalla porta, vi si avvicina un goblin piccolo e minuto che si frega le mani. Salve, miei signori. Salve, servizievole goblin. La sua, sì, grazie. Sì. Tu saresti? Io sono Marvin. Che cos'è questo posto, Marvin? Che non lo chiedo più. Questo posto è la prigione di Shindu, come sicuramente vi hanno detto. E io sono qua per informarvi e capirete presto perché in tutti i miei interessi informarmi di quello che succede qui. Siamo tutti orecchi. Bene, avrete già capito probabilmente che la storia degli inceneritori non è molto vera, no? Ecco. Tra di voi ci sono persone che sono abbastanza svegli di turno. Esatto. Fa ridere. Il corvo ti guarda. So, dove smetti di suggerire al barbaro. Ti prego, ma che il corvo mi suggerisce le risposte. Esatto. Dovete sapere tuttavia che vi è un altro modo in cui vengono giustiziati i detenuti. Lasciano tu. Ovvero si lascia che si ammazzano tra di loro. Non c'è problema, nessuno può battermi. Un esperimento sociale! Non è solo questo, no, vedete, non è completamente falsa la storia dei forni. Se qualcuno non uccide nessuno, dopo una settimana gli viene affidata la fine che gli era stata assegnata prima. Ho capito. Di venire qui, in caso. Esperimento sociale. Quindi, tuttavia, per ogni persona uccisa, guadagna una settimana di vita. Ecco, questa è la situazione. E perché mi sto dicendo tutto questo? Sì, infatti, ti converrebbe tacerne. Ma prego, andiamo a parlare davanti a qualcosa da mangiare là, ristoro. Aspetta, no, tu hai interesse ad ucciderci e noi dovremmo cenare con te? No, se volete mi dico subito perché non dovrei avere nessun interesse ad uccidermi, ecco. Vedete, il motivo per cui in questo momento tutti sono tranquilli, ballano, cantano, mangiano, senza che ammazzarsi per guadagnare ulteriore tempo su questo mondo, per quanto schifoso sia in questa città del cavolo, ecco. È perché c'è una situazione di stallo, no? Ah. Ovvero si sono formati diversi gruppi, ognuno con più o meno potente, i quali sanno che attaccandosi non porterebbero altro che alla mutua distruzione, no? L'obiettivo di ogni gruppo, diciamo, è riuscire a intercettare il prima possibile i nuovi arrivati per mettere nel suo anziché in quello avversario. Mi ho capito. Spiegato? Sì, Marvin. Prego, prego, venite. Beh, non possiamo godere delle offerte degli altri gruppi? Sì, è vero. Che si mette in una posizione difficile facendo questa cosa. Sarà più chiaro perché, però, trattando. Ma sì, a pancia piena si pensa meglio. Io seguo il goblin. Ci sono altri pasti. Portaci in giro, Marvin. Ok. Speriamo che non sia la carne della droga. Questa è la guida turistica. Sì, la droga non mangia niente. Anche, però anche te scelgo. La droga non mangia niente. cos'è, non hai fame? È nulla. Potrò, si mangia Marvin. Speriamo non sia la sua carne. Cioè, no. Senso... Vi sono altre regole, oltre a quelle che vi ha accennato. Se qualcuno riesce a uccidere 10.000 detenuti, questi ottiene la libertà. Dici, sono... Perché tutto questo, mi starete domandando? Che cosa ci guadagna Alba Rossa? Ecco, sì, ovviamente anche noi poveracci non possiamo saperlo con esattezza. Tuttavia, l'ipotesi più fondata da prove, purtroppo io stesso non so niente, è il fatto che vi siano diverse scommesse clandestine fatte dalle più alte cariche, non soltanto del mio, ma Visha, ma anche da diversi luoghi molto lontani da qui, che... sui quali ovviamente abbiamo salito una certa rituale. Ma tu ce lo il faresti? Il motivo per cui sono io e non altri ad avervi approcciato è che per garantire questa situazione di stallo e non far sì che tutti si ammazzino a vicenda, viene garantito a ogni gruppo il privilegio a giro di poter abbordare, diciamo, i nuovi arrivati. Questa volta è toccato al mio gruppo che io rappresento. Ah sì? Parlami un po' della tua combricola. No, non è visto loro. Parlaci di te, Marvin, di quelli che uccidi. Parlacene, Marvin. Beh, ecco, la mia città è la città degli avvelenatori. Ecco, già mi stanno sulle palle. E te lo dico più un pazzo. Esatto. esatto, guarda. Io ho continuato a mangiare, cioè, non curante. Ma va? Sei scemo? Ecco. Sì. Precisamente non sempre i nuovi arrivati vengono giudicati. In questo caso, purtroppo, c'era bisogno disperato di ottenere settimane extra e quindi i vostri piatti sono stati di conseguenza avvelenati. Per chi ha mangiato? Prima, era comunque un veleno in sapore e in odore. No, era ottimo, vai! Da percepire. Ma perché porti un altro? Scusa, per fare in modo che il corpo gli suggerisce. Ovviamente, dette queste parole, Junkai Shek estrae la sua katana e lo trafigge prima che voi abbiate il tempo di fare il goblin, la stessa cosa. Trafigge Junkai Shek, quello che è quello imprigionato. No, giustizia il goblin. Direttamente gli conficca la spada. Lui non aveva mangiato. Voi fate... Perché non abbiamo mangiato? Io sì. A quanto pare sì. Sì, avete detto così. No. A meno che abbiate... adesso no, non avrei mangiato per questo motivo... religioso. No, vabbè, sospettavo qua, però fa niente, mangio lo stesso. Comunque è facile la prova. Fatemi una prova di... fortitude, cioè la prova, un tiro salvezza fortitude 30. Ma che porti un altro? Cos'è che è, scusa? 24. Ah, 25. Tu? 13. Tutti lo passate tranne Davide. Okay. No, no, no. Prendo un D6 di danni alla destrezza. Che tiriamo. Due un D6. Era ottimo. Non se ne può avere un altro, vero? Che sei? Così non mangio di 3. 6. 6 danni alla destrezza. Bravo. Di 6. Si dato 6. Vabbè, capita. Adesso ti dai danni alla destrezza. 10 minuti. Ah. Visto la celerità con cui te l'ha detto, fai tempo a metterti due dita in gola e a dimezzare il danno. Ah. Vuoi una mano? Sono volato. Quindi prendo 3 danni. Cosa dire alla destrezza? C'è la statistica destrezza. Cioè, qui c'è. Non alla statistica. Mentre. No. E quindi meno 6, che è molto mentre più la sua katana è ancora conficcata nel corpo del goblin. È temporaneo, mm? È temporaneo. Sì, sì, si può curare facilmente. È uno. No, è uno. Questi pronuncia quelle che sono le sue le prime parole che vi sentite dire da quando viaggia con voi, da quando ha viaggiato con voi per diverse settimane. Ma chi? Junkai Shek, che ha conficcato la spalla. Esatto. Il generale su. Questo non so cazzo. Ex generale. E sono quanti detenuti ci sono a Shantou? 10.230 circa. Il goblin prima di ispirare. No. Vai, vabbè, ti do un fottiti. No. I miei fratelli mi vendicheranno. Ucciso il goblin, più che se sparisce dalla vostra vista. Cioè, voi, proprio come se fosse teletrasportato. Ma non è un teletrasporto. Certo. Che non esiste. Perché in questa ambientazione il teletrasporto non c'è, perché altrimenti si perderebbe tutta la... La magia del... Ma magia del portale. Portale! Dimension Door si può usare. Esatto. Sì, cioè, però lui è un monaco, quindi ha usato Abundant Step. No? Capito? Ah, che è come Dimension Door, comunque. Anche a me. Capito. Okay. Puoi usare Dimension Door, non preoccupare.

16. Occhi latte, e, diciamo. Sei Damasco, quindi. Sostanzialmente ha delle vite passate in cui si reincarna, in particolare. Damasco? Esteticamente simile a un umano con la pelle. Damasco. Ma ce l'hai tu, mi serve? Questo? Ho il pennarello. Il pennarello. Allora, diciamo che... Ah no, sono in 9, è giusto, sono in 9 perché... Quattro se la prenderanno con gli altri detenuti, fondamentalmente, che vi ho descritto prima, mentre gli altri sono con voi. Per comodità di non gestire 60.000 personaggi e 60.000 mostri, facciamo che la gabbia in realtà è divisa a metà e quello che succede nell'altra metà non vi interessa. E voi sconfiggete quelli che ci sono nella vostra metà, che casualmente comprende voi quattro e non gli altri. Ok, ecco. Mi sembra giusto. Ci vuoi disegnare? Ah, vi faccio vedere i formi, comunque. Faccio vedere. Grazie, sì. Tengu, uomo corvo. È bello. Bello, poi Gaslinger è fantastico. Classe Gaslinger. Uomo corvo è stato che voli. No, non vuole. Non posso volare. E che pregi hai del corvo? Il becco. Becco. E... Le piume. Il piumaggio. I artigli, allora. E la visione, low light vision. Due di loro sono così. Ah, che figli! Quali? Oh, che brutti! Sì, sì. Quindi, senti, le mie forze sono sempre un terzo. È chiaro, certo. Anzi, però non hai danni. Adesso ce l'avete poi, cioè non ce l'avrete dopo nella prigione, chiaramente. Certo. Vabbè. Cioè, dico, chi sei? Non erano un mezzo adesso e un terzo in prigione dopo il combattimento. No. Ok. No, quindi dai. Oh, poi altri avete simili uguali, anzi direi, quindi non vi sto a far vedere. Io non ho un terzo. Mentre poi ve ne uno così un po' più cattivo. No, è uguale anche questo. Vabbè, questo qua è un po' più cattivello, così. È uguale all'altro. Sì, esatto. Sono molte differenze. Che figli, bellissimi. Su queste formicone, no? Però questo qua è large, mentre gli altri sono migliori. Ah. È più grosso e si distingue dagli altri. Ok, ecco. Io vi puoi colpire. Adesso altri circa. Fai dire. Vuol dire che grande quanto un troll, circa. Vai, 3 metri, 4 metri. Sì. Ci disegni tu? Sì, adesso sì, un attimo che ti vado all'iniziativa. Scusate, solo 3 di queste. Uso. Monte nella galera. E poi fare gita. Ma questo? Gli altri schiaffi ai questo non è mio, di chi è questo? Do da tuo? È mio, sì. To. Da principio, sembrava che non era mio. Dai, che devo fare il primo critico della giornata. Secondo. Che classe e personaggio siete, non esce? Magus e If. Il Magus è un combattente che usa anche le magie. Ok. Sono una... Quindi calma. Ah, la scimitarra. Sono una genasi, ho tipo la pelle di fuoco ma blu, perché mi è stata concessa. E lui è un... Barbaro. Un Suis, che è molto simile a un essere umano. Solo che ha le braccia... Gigante. Sì, è gigante perché ha tanta di forza, però non è vero. È barbaro. Certo. Lasciate l'incantesimo, devi parlare con lui. Ma non adesso. No, il Grisman già c'è, dice cosa fare adesso. Ah, ok. Ah, magisci liberamente. La prima cosa che si muove, spara. Vedi, la differenza. Io semplicemente ho cercherò di non muovermi per primo. È vero, siamo ammanettati? Io ho quattro. Sì? Saremo ammanettati? No, sì, certo. Sì, siamo ammanettati. Quindi devo tirarmi fuori le pistole. Siete entangled. Come se fosse entangled. Che figo. È possibile comprare le è un malus meno 2 al tiro per colpire okay. Metà del movimento esatto e DC abbastanza scrausa per lanciare incantesimi tipo 10 più 10 o 15 più il doppio no è pari il livello e basta per okay. Untangled come va la legge dopo se non lo leggi più vedi tu cosa devi fare. Io se non ti posso aiutare sul sapete qual è il bello di questi tizi? Che c'hanno tutti dei bonus assurdi iniziativa. Vedi, più c'è veramente collettiva, quindi. No, ah, che figo! Scusa, dato un calcio a qualcuno. No, sì, allora, 15 più il livello dell'incantesimo. Solo che prima ho sbagliato. Okay. In verità, sotto le piume ho un tatuaggio di un abolet, io. Sì, okay. Puoi averlo. Mm. Mettilo dietro Avram e Elani, chi è che ha... Forse è meglio... No. Avram e Elani, chi è che ha... Elani è più iniziativa. Chi è che ha più iniziativa tra i due? Io sono più 6. Io 12. Sono i 12. Sì, sono intelligenza. Sì. Cioè, c'è iniziativa di yogata, il più 4 della questa prima del tratto. Sì, sì. Ti pentirai di agire prima del gold. Sempre un buono. Beh, poi dietro dalla zia. Ah, vedi. Però noi due. Beh, tu, no, tu hai un terzo delle tue cose, eh? Meno 4 on dexterity, eh? Quindi tutti prendiamo meno 2 l'iniziativa. Allora? Io ho fatto 20. Allora io 17. Allora ho fatto 20. 17. Io ho fatto 14, allora. Quanto sommi? Io? Più 5. Cosa vuol dire che ho un terzo delle cose che ho? Che... Non è studiato. Se hai, metti 5 incantesimi... Di livello 1 devi fare un terzo di essi, però ha rotondato per difetto, quindi ne hai uno, giusto? No, ne ho due. No, ne ho uno solo. È rotondato per difetto, no, ovviamente, vero? Cosa? Un terzo delle nostre capacità è rotondato per difetto. Scusa, ma se io tipo figurati, ho 4 incantesimi di livello 0 e 4 di livello 1, vuol dire che... Vabbè, gli incantesimi di livello 0 no, perché sono infiniti. Ah, quelli di livello 1 intendevo, scusa. Quelli di livello 1, se ne hai 4, meglio. Ma avevo qua negli appunti, in effetti. Ah, bene. Sono così previdente. Meno 2 tiro per colpire, meno 4 destrezza, e poi fai 15 più incantesimi. Esatto. Dovrebbe essere una roba utile. Beh, se uso parla magica, la so può ancora come l'altro. Sì, puoi usare così. Okay. Prima da agire è quello largo. No, questo è ancora dentro la gabbia. C'è cioè solo uno fuori. Da fuori. Ah, sono fuori. Esatto. Però, mi ho già nell'otto. Oh! Però non è soltanto tre, quindi li userà tutto adesso. Ma... Staccategli la mano, please. Io sono già in ira, vero? No, vero proprio no. Tu, sei una fogliolina che si sposta e tu... Io sarei incazzato tutto il tempo, se fosse possibile. Questo è il mio segreto. E quindi sono per non sbagliare, tanti attacchi fa... Qui 3, ecco. Vediamo chi di voi non sto, chi di voi non sto, anzi. Dopo, come allora, siamo? Sicuramente messi? Quello grosso se lo becca sicuro, no? Giusto? Perché quello grosso qua? Mi sembra giusto. Cioè, c'è gente molto più grossa. Giustissimo. Okay. Ma che tu sei grosso? Io sono medium, come tutti, solo che sono sì, grosso. Però c'ha 30 alla forza, tipo, quindi è grosso. Quindi non posso avere il braccio... C'è scritto qua, 30 alla forza, quindi... Poi, tipo Schwarzenegger che cammina. Il corvo è potrebbe essere ritenuto poco pericoloso. No, stronzo di me, o ti faccio saltare il culo adesso? Ti tengo, non lo so. No. Però vedo le tue pistole. Ah, caso. Lei, non il mio corvo. Sì, sì. Okay. Però vedo le tue pistole, e quindi... Qua, a anche distanza. Te. Tra voi due... Sono disarmato. Tu sei disarmato e difeso. Però io ho... Tu hai una spada. E però io ho uno squirrel. Perché, insomma, se la prende mai col god, logicamente, al primo attacco? Perché ho uno squirrel. Faccio tenerezza. Chissà. Ok, quindi... Se lo mangio. Primo, secondo e terzo attacco. Accomodati. Io. Sai che se gli danni, dai. Io guardo il corpo, guardo il corpo, così. Colpisce una 30 e passa. Colpitissimo. Terzo, quanto 30? Okay. Colpisce a me. Se più di 20 mi colpisci. Fammi un tiro salvezza. Che cavolo è? Ah, qua. Ecco, forti tu. Non si può schivare il colpo buttandosi da qualche parte? 25. Qua ci ha. 25. Beh, ma 25, buttandosi più là. Ok, lo passi tranquillamente. Cazzo, non ho planato. Prendi però 11 danni. Devo mettermi planato, vedi che serviva, mo. Poi, per te, invece, colpisce una CA di 15. Ah, to! Stronzo. Ti sei buttato e l'hai evitato, visto? Di... Bravo. E tu sei a terra, però, non puoi... Mentre per te tira un 24. Sì, cosa devo tirare? Ti ha niente. Ti ha un tiro salvezza forte, dice. Una casa che piange. Fallisci. Piange. Quindi, il culo. No, non ho un prendi, sei sickened, quindi prendi meno 2 al tiro per colpire un'ulteriore di salvezza. Quindi occhio per i prossimi avvelenamenti che saranno più facili, perché non solo sono più facili, ma perché più veleni, se sei già avvelenato, ancora è vero. Poi dopo. Oh. Ecco. E più prendi un D4 di danni alla destrezza. Che sono? Perché lui gli ha fatto male e a lei prende danni alla destrezza? Perché lui ha superato il TS sul veleno, mentre lei no. E ti prendi io 4 danni alla destrezza. Che fortuna, tiro sempre il massimo sui danni alle caratteristiche. Caratteristiche. Ma ci dobbiamo posizionare in qualche modo? Vero, Simone? Ti prendi 9 danni. Faccio così, lo dico. Dopo di loro, tocca a colei che è stata appena avvelenata, ovvero Eleni. Eleni, scusa. Allora, posso... È la francese. Posso usare... Avete un foglio? Arma magica, sì. Di brutta... Scusate, posso... il computer, dovevi usarlo. Thomas Locke. Volevo stampare le cose, ma ho fatto il tempo. Posso usare arma magica? Secondo... Posso riuscire ad allargarmi fino a qua? Sì, puoi allargarmi di più. Così riesco a appoggiare il libro. Sì, è proprio il massimo. Oh, vabbè. Poi dopo qualche secondo mi posso... usare arma ci disegni magica, Danilo? Ah, tieni conto che loro sono fuori dalla gabbia, tu sei dentro, quindi attaccarli. Ah, vi disegno, giusto? No, non è un disegno, è tipo per dare a me più uno tiro per colpire ai danni. No, sto parlando... No, cioè... dicevo prima perché lui mi ha detto, guarda che loro sono sì, fuori. Sì, ma quella è tipo, cioè è una swift action, tipo usare l'arcane pool per fare qualcosa lì, per incantare a più uno. No, voleva mandarsi, voleva proprio mandarci sull'incantesimo. Quanti danni ha fatto? Ah, cosa, cos'è la... Arma magica. Sì, ma è più di più uno, perché quello scala col livello. Esatto. Quello greater, quello base no. Ah, è quello base, allora niente, sei più. C'è anche quello greater. Sì, però volevo usare quello. Simone, a te quanti danni ti ha fatto? 11. Su quanti condivisi da te? Se sono in IGA, 286. Se sono in IGA. Se non sono in IGA, ne ho un po' di meno, ma no. Mi faccio grandi due o un quadretto? Due. Due. Se non sono in IGA, ne ho... Ma chi 214. Boh. Quella è la nostra cella? Sì. Cioè, metà cella. Ciao. Siamo stretti stretti? Beh, minchia. Certo, giustamente. Beh, tizio che va già per la itizzata. Ma allora, è... No, vabbè, fammi. È aperta la porta. Cioè, nel senso, chiusa la porta. Ah, no, aspetta. Vabbè, faccio anche questo del Taskmaster, questo qua. Fatto giusto, sì, ok. Qua, cioè... No, è chiusa, ovviamente. Questo è un male sia per voi che per loro, ma vediamo loro come lo risolvono. Io ho pensato, ovviamente, voi no, perché non sapevate. Però vi dai, ve lo dico, non è che gli attacca a distanza tutto il tempo, che sarebbe una palla. Dai! Guarda, cioè, quello lì l'hai fatto solo tre... Ah, giusto. No, era no, è sbagliato. Sbagliato. Dov'è il fazzoletto? Lì ce ne sono un po'. Abbiamo messo non è difficile. Se c'è una cosa per il nemico, compri quella cosa e per carità. Manuale del barbaro, regola numero. No, sai che se rompessi, se tu provassi a rompere la gabbia, le guardie ti ucciderebbero, cioè proverebbe, avresti contro anche le guardie se tu provassi a uscire. Scusa, ma siamo sotto attacco e le guardie mica pensano a lui. Probabilmente alcune guardie sono comunque rimaste lì a guardarvi mentre altre coprivano loro le spalle. Scusa, ma tipo noi siamo qua? Certo. Probabilmente sempre pericolosi noi delle guardie, cioè più pericolosi noi di non puoi ammazzare anche loro perché creeresti un paradosso temporale. Nel senso che poi sei arrivata a 101, giusto qui. Scusa, ma quindi loro sono vicini esatto. Comunque. Questo è successo in passato. Appunto. Ma sono anche la guardia, magari. È un flashback. Però, cioè. Ah. Vabbè, poi non guardi nemmeno. Cioè, potrebbe essere che cazzo te ne frega, tu c'hai le pistole, sei l'unica che deve fare storia. Poi le guardi non ti stanno mica tirando i giavellotti. Sì, ma comunque sono lì dentro, sono su casa loro. Qua c'è la spalla che la gabbia. Loro sono vicini alla nostra... Quindi questo qua è quello grande canto di giavellotti. Ti da vola. Tiro il corvo. E poi avete visto che non ha giavellotti con sé comunque, quindi cioè, non mi preoccuperei fossi in voi. Che cosa ha giavellotti? Di fuoco. Perché non posso. Questo qua ne ha solo tre. Brava. Puoi fare così. E non uso quello lì. Beh, spari le robe, spari il fuoco dalla gabbia. Non ce l'ha giavellotti. Ah, io sparo anch'io il fuoco dalla gabbia. Può darsi. Però il mio è blu. Io posso sparare il fuoco. Ok, dopo il giavellotto ci ho toccato, cosa fai? Ah, così anche voi forse. No, no, le mani. Vabbè, voi siete un po' dove volete, qua. Non si può. Io uso raggio rovente. Qua. No, cazzata, qua no. Qua lì no. Lì, qua. Cioè, vuoto. Qua. E qua. No. Facciamo che questo è Avram, questa è E, questa è D. Oh, tutte ettere diverse. Questo è M, questo è T1, questo è T2, questo è V1, T sarebbero? Taskmaster, questo è V2. Sono giusti? Io attacco questo e faccio... Aspetta, non mi ricordo se poi l'avevo messo di più o di meno, devo controllare che l'ho messo di più giusto qua. Vabbè, sì. Di cosa fa intanto? Volevo fare raggio rovente, che sono 4 di 6. Sto per comodità ignorando la cover data dalle sbarre, perché... Sì, vabbè, penso che sia nulla. Cioè, comodità no, tua. Ci sarebbe, per comodità... Sì. Dei tuoi mostri che ci hanno attaccato in queste tre volte. Stanza, è vero, sì. E Cosa devo fare per lanciarlo, scusa? Niente, dici che lo lanci e per fare il tiro per esprimere quello che richiede. Me lo ricordo io, ragiono mentre fai il top numero di raggi in base al tuo livello. Che dovrebbe essere 4, sono dai, è 4 a livello alto. Al 20? Non so. Dovresti saperlo voi. Io ho scritto 4 di 6 fire. Quello sì, ogni raggio fa 4 di 6, ma non so quanti raggi lanci. Comunque per ogni raggio devi fare un tiro per colpire touch a distanza. Cosa vuol dire? Che lanci un di 20, sommi la destrezza, mi fatto fare. Poi dico se colpisci. 18. Contro chi, scusa? Contro già velottano? Ah, contro V1. Va bene. C'è che scheda? Io sono questo. Bello, sei, sei l'unico che non è stato colpito da questo. Sì. Si bello, può scagliare un raggio più un raggio aggiuntivo ogni 4 livelli. Quindi sì, fino a un massimo di 3 raggi livello 11. Ah, ok, 3 raggi con bilanci, perfetto. Tutti e tre su di lui? No, non sì. Non lo so. Pazzo. Ci occupiamo di questo. Comunque l'hai colpito abbondantemente. Sì. Il povero su di lui. Sì, lanciali tutti sullo stesso. Se riuscite a convergere con le forze, di 6, meglio. Di 6, scusa. Certo. Un altro. Non ha modo di resistere ai tuoi colpi al tuo raggio. Quattro che lo colpisce in modo luminoso. Quattro. Sono 3. L'hai detto questo, amore? Non ho detto 3 raggi. Ah, allora sono 4. Ma sono 4 di 6 comunque devi lanciare. Vabbè, se manca comunque uno. Sono... Per adesso sono 10 più... No. 11. Sei tu che mi hai dato 11 danni? Ok. Sì. Secondo raggio? Ah, hai ragione. Sono 4, sono... 3 raggi. 3 raggi. 4. Devi colpirlo anche con l'altro raggio, eh. Ah, devi fare... Sì, scusa. È una formalità, non ti devi dire no. 18. Ok, buono. Sì, ne manca un po' uno. Aspetta, aspetta. Non lo uso, faccio sempre uno con questo. 9 più 5. 14. Scusa, gli altri... Cioè, questi qui sono T 16. E W. Sì. Ma sono 18. Diversi esteticamente, 17, quelli che ci hai mostrato. 17. Poco. Okay. Okay. Cioè, non posso notare sì, nulla facendo una prova? 17. Da come sono armati? Diciamo che portano armi. Gli T hanno addosso un mantello prestigioso con varie medagliette. Che cazzate male. Ok. E sono 17 danni? Sì, manca il terzo. 18 più 6. Ho capito. No! Non devi. Ma porti sfiga. Da... Quale vuoi? Quello lì, quello che vuoi è un di 6. Ah, di 6. Visto? 5, 5, 10, 16 più 6, 22. Visto? Invece col tuo ho pagato un sacco di danni. Ok, col tuo ultimo raggio. Il tuo ultimo raggio colpisce la povera formica alla testa che esplode andando a sporcarti. Perché scusa, quanti danni hai fatto? E sporca anche Abraham perché. E sporca anche. Ah no, 18. No. Quindi su di voi piovono cervella di formica. Ah! Vai così! Io faccio così. Lo fa davvero. Ma poi... aspetta, Eleni, ok, ecco. Tocca a Abraham. Quindi non sono uber forti a sto punto, direi. Ah, fammi cancellare qui. Prendo con gli anni a fare. L'ultimo 22. Sì, è vero. Però... Quanti anni fa? Ma sì, provo a non sprecare troppe energie. Mi sposto... Tu sei questo, scusa. Sì. Sicuro? No, vabbè, dai. L'impegno. Faccio... Tommo? Vabbè. È quello che vi ha lanciato il giavellotto. Dico no, allora summon monster, ok, 5. Devo castarlo per tutto il round, ovviamente. Mi sposto, non vorrei poi privarmi della visuale. Se full round, no? Sì. Ah, giusto, vero. No, mi sposto con una swift action. Giusto. Teleportation. Io... però devo vedere dove arrivo, quindi non so, qui non lo vedo, cioè dici tu lo vedi. Ok. Vedere lo vedi. Posso sbarrare la prossima, sai, no? Allora con la swift action mi sposto qua. Dov'è il coso? Sto io. Ok, lo segno. Dove, qua? Sì. Non so se fare subito... Se fare subito haste oppure tenerlo quando compare il mio mostrino. Ok. No, ma aspetta. Non vale haste sul mostro, ben detto, no? Sì, però gli dà un più uno al tiro per colpire. Quindi... Ah, ne darà anche più. Ah, ma non l'hai attaccato? Ti mosso, fatto un giro. Mi sono teleportato lì e per ora non sapete anche cosa sto facendo. Allora tocca all'ultimo guerriero semplice rimasto, il quale ha un giavellotto, ma è un po' titubante a lanciarlo. No, no, questo. Ecco. Tuttavia, colto anche un po' dalla disperazione... No, di vero no, perché loro sono tutti in mente collegate, quindi non è che si fa ancora la disperazione queste cazzate qua. Niente, con aria fredda lo lancia contro... Di già B, che vede. Lì è? Bacca, lui. Vabbè, ma questo però è un pippone, cioè non è mica come il ciccione. Non fa di tutti. Però ha tirato un buon tiro. Ovvero un 24. Colpito, colpito. Ok, fai un tiro salvezza fortitude. Però, no. Cioè, 23. Là, superato. No, no, no. Questo. 6 danni, comunque. No, scusa. Scusa, pensato. Vabbè, fatto di meno col D6. 4 danni. Quindi 11 più 4. 15 danni. Tocca a te. Che ti ha appena colpito quello, però. Ah, beh, no, però tu c'hai le varie cose che ti intimidiscono. Esatto. Quindi faccio una prova di intimidire. Su chi? Su quello mi ha colpito. Vabbè, su entrambi. Usando il. Quale? Ma aspetta, ti ha colpito anche questo, eh? No, l'ultimo che mi ha colpito. Ok. Faccio il con la move action fai intimidire, no? Ecco. Esatto. E... ok, fammi, vai, tira. Cos'era la DC? 23. Cosa ti fa un urlo? Ah no, scusami, il Terrifying Horror. Io devo dirtela. No, ho sbagliato, è l'altro, quello per resistere al Terrifying Horror. Quella è la tua DC. Aspetta, cosa succede se distrugge le sbarre? Mi picchiano le guardie. Sto pensando a massacrare anche le guardie. Però poi... non mi preoccupate. Ho perso... ce l'hai tu? Il D20 rosso? Sì. No, ok, basta che ce l'hai tu, se no non lo tolgo più. Io ti dico, vieni qui, dopo che hai agito. Ho già usato... ah, vabbè. Ah, la tua move action. La... mm-hmm. Basta che fa un passo... ah, comunque non ricordo di quanta dici. Dai, tira! 27, con un 2. Ok, quanto hai soggetto questo qua? Metti che a 40. No, decisamente no. Ok. È scosso. Ma è shaken. Ci ho pensato perché, essendo mente comune, non so quanto. Ma quindi tu hai usato tutte e due le tue azioni? Solo move action. No, non c'è scritto niente. Ma anche fai qualcosa di importante con l'altra? Comune? La standard. Ma anche grosso mente comune? Beh, posso fare il grido, quello che... però... quelli shaken sono che fai e scappano. Ah. Quindi poi ne scapperebbe uno solo, perché l'altro non è shaken. Magari mi sono scritti guai. Beh, no, mica faccio un passo mente comune e smetto di scendere. Cioè, ti spiego, se tu ti sposti qui io ti faccio uscire dalla cella. Se preferisci stare nella sì, cella? Sì, sì, sì. Okay. No, però sarebbero portato dentro le cose nella cella. Mm? Uscite tutti e ti trasporti dentro le altre. No, quello non lo so fare. Va bene, è intimidito per ora. Dopo ti dico se non lo era. Faccio un passo a metro e mezzo verso il mio amico corvo. Lei o lui? Lui. Okay. Il mio amico corvo è lui. Ma non posso mettere mezzo, se usi la tuzione standard a farne due arrivo fin qui, mi serve. Vabbè, no, dopo. Ancora meglio. Ah sì, io sono qua, così no. Ah, tu sei... io sono B. Ah, io pensavo, scusa, questo chi è? Io. Ah, vabbè. No, allora non c'è bisogno, cioè sei già qua. Fa niente. Resterai nella cella. Io? Sì. Ma ho la porta dimensionale. No, perfetto. Esatto, Dimension Door esce. Io faccio un passamento mezzo verso... ce l'ho, no, so tra incantesimi. No, tu sei... dipende tu se... tu sei A, non devo muovermi. Ce l'hai tenuta. Dopo no? Tocca a... niente, adesso tocca a me proprio, non devo vedere se sono... ma scusa, io ho ancora standard action, no? Scusami, sì. Ma... mm-hmm. Posso fare il livello 4? Uso il Terrifying... Dimension Door a livello 4. Dimension Door... no, perché penso dovevo muovere vicino a lui. È livello 4, ma tu le caste... lo faccio e prendo un raggio di 30 metri... quello che è shakened, se non supera la prova, se non l'altro dice in generale quanti ne lanci. Okay. Raggio di 30 feet attorno a te, sì. Quindi c'è dentro anche questo qua no. Non penso. Che bravo che sapevi che dimension. Ma cosa sono tipo urli questi? 4 di livello. Allora, intimidito è obo, cioè quello che vuoi, puoi avere anche solo guardato male. Questo è un grido. Questo invece è un urlo, sente che scuote il cuore. Quello lo fa su uno, questo qua lo fa in un raggio di 30 feet. Scegli dimension d'ora è quello. Ok, sì, uso quello, dai. Come si chiama questo? Terrifying Call. Però è un range power. No, l'ho diviso tutti per livello. 30 metri. Ho votato per lì. 140 metri. No, entro 30 metri da lui, che sono 6 quadretti. Forse perché anche questo, effetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, per anche lui. Minchia. Ma hanno capito, quello è Shaken? No, questo è Shaken. E se questo sostanzialmente che è Shaken, se viene, no, diciamo... Ah, gli altri sono Shaken, altrimenti. Ah, figo. Questo è un quadretto. Ma fa quello che vuoi dire. E appunto, ma... Questa roba non ha peso superstizioso. Forte. Non so se lui deve Ah, tu quant'è che lo prendi? 30 piedi, però non so se lo prendo tutto. 6 quadretti. Perché sono 3. Ma non so se deve essere anche lui entro i 30 piedi, io posso arrivare fino a qua entro i 30 piedi. Adesso glielo chiedo. Tu che sei qua? Sì. 1, 2, 3, 4, 5. No, il mio è dritto. Che è con la pistola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cazzo di dritto. Niente, non trovo i tratti dei Formian, quindi diciamo che non lo sono e basta. Perché qua non parla di tratti di Formian, però mi sembrava strano. Parliamo forse una roba. Scusa, tu preferisci okay, stare nella cella, cella o di che tipo? Will? Uscire? La cella forse. Sì, se non sbaglio, Will. Okay. Sì, perché non sono tanto forte. Se vuoi dire quella DC. Allora, prima da quello che potrebbe scappare a gambe levate, dimmi la DC. 23. Ok, questo scappa. Bene. O scappa... Un di 4 di round. Un di 6 di round. Ok. Cioè, o rimane fermo per un di 6 di round o No, quello è se non può scappare che rimane ah, fermo. Ah, se non può scappare. Però qua c'è ampio spazio per scappare. Uno. Ok, gli altri poi. Con te? 23. Ok. Io sono convinto comunque. Gli altri purtroppo, non sai se per fortuna o per loro capacità, riescono a resistere al tuo urlo e non sembrano minimamente influenzati. Ho tirato alto con tutti. Sono fortunato, già tipo 16, 17, 18. Infatti, cioè, 23 non è... No, per loro tra l'altro non è facile, non è scontato. Vabbè, ora è tutto pesante. Dopo Baka, toccava a me, avevo detto. Tocca, diciamo, a quelli con, non a quello grosso, ma gli altri, quelli un po' più... Con i lustrini. Con i lustrini, ecco, esatto. I lustrini. I quali iniziano, cioè, sentite telepaticamente un inno motivatore che ringalluzzisce i pochi di Maka. Solo loro due, vabbè, il ciccione, ok? Quello torna poco. Va bene. E uno di loro si avvicina a quello grande e lo tocca. Lo tocca così. Lo tocca. Queste cose. Bambolina, dove ti ha toccato? Mostra giù la bambolina. Al suo tocco, il Formian più grande diventa una nube di gas. Oddio. E capite che potrà facilmente passare attraverso le sbarre. Che figo, cavolo. Ma che bello. Allora ignaro del fatto che gioco comporterà solo più botte, ma fa niente. Per loro siete delle pippette che meritano di sì. E allora non usare... Loro non usare... Tu vai fuori, Dave. Vai fuori, leggi dentro me, lei. Tanto lo meniamo. Sì, certo, io sono sempre dalla parte opposta di dove sta il cattivo. Il problema è che ci sono anch'io. Ma ti sparo se vai fuori. E tu sei? Ah. Ti sparo anche le parti. E Diaz ti vicino. Ah, è vero. Ti trasportano insieme. Che razza sei? Ma le guardie hanno capito, sono lì e cazzeggiano, combatto con le forme. No, molti stanno combattendo, cioè. Però alcuni vi guardano. Però alcuni vi guardano, quelli che vi guardano sono protetti da altre guardie che combattono i formi attorno a loro, capito? Che figo. Tipo, secondo? Quindi sicuramente se vai qua... Mentre, chi vuole una Dark Vision? Vabbè, nel loro turno. Low Light Vision? No, beh, però se non preparato la Dark Vision, no. Io ce l'ho. Ce l'hai? Il mio co... No. Io sì. Oh no, scusa, non è Dark Vision. Perché non ha Dark Vision, tutto intorno a lui diventa buio. Devo fare una prova di Spellcraft, se vuole, per capire che, vabbè, è stato lanciato un banale incantesimo. Darkness. Buio. Sì, esatto. E l'altro ha lanciato Darkness. Io muovo le banale cieche, quindi ci sono cazzo. Io quindi ci ora vedo... siete è tutto buio. Tu ci io vedi. Ci vedo normalmente. E vedi che in pratica uno dei... l'altro Taskmaster, diciamo così, perché sono così solo, ha lanciato un incantesimo. E prende questo qua. Diciamo che siccome l'intelligenza più 3, non sei più una solita stupida come nelle vecchie campagne, ecco, capisci che probabilmente ha fatto una magia che ha reso tutto buio intorno a voi. Aspetta, era un raggio di quanti fist? Scusa, vorrei saperlo io, vabbè, mo controllo. Non è tantissimo, Infatti, tipo 20 feet, però secondo me... E dentro lì qua c'è, cioè, avete poco da sperare. Ma... 20 feet radius è sufficiente. Così tanto, 20 feet, sì. Sì, sì, 20 feet, mi pare. Se faccio 60 feet... Sì, 30. Cioè, in effetti, tipo, lei potrebbe essere fuori, verosimilmente perché è l'unica lontana e quindi tutto intorno qua. Comunque per me però lei c'è Dark Vision e quindi c'è. Ok. Ti ha spento la luce. Esatto. Dopo è tutta sta gente. No, lo light vision nel mio corpo. Tocca a Damasco. Ma io non vedo un cazzo. Ma ascolta, ma Dark Vision secondo te interrompe line of sight? Line of sight sì, sicuramente. Idea. No, line of sight sì. E le invocazioni? No, le invocazioni, per favore. Le invocazioni penso che tu possa... Non lo so. Come si scopre questa cosa secondo te? Boh, pensiamoci, pensaci un attimo. Intanto tu dimmi cosa fai. Domanda. Io non ci vedo. Sì, però so che davanti a me c'è questa parte della gabbia, no? Quindi io posso buttarmi sulla gabbia, trovare un buco, tirare fuori la pistola e spararci dentro. Tanto so che questo qua è davanti a me. Perché agito prima? Sì. Sì, però non così, mentre il 50%, certo. Cos'è? Beh, non ho così in mente. Certo, tu non lo vedi così, mentre come ce l'ha. Comunque, aspetta, 20 foot radius, tu dici andare fino a qua. Tanto io 30 piedi, ho anche più uno, sono dentro. Sì, dico, entra, cioè, da qui, io sono lì, genio. Sì, no, sto guardando fin dove arriva l'area, però non lo sapete. Ma io non lo so. Appunto, però se esci per caso te lo dico. Ah. Vido. No, non uscire, però aspetta, lui peccato, voleva beccarvi tutti, quindi... Ma io non so che ha lanciato lui. No. Sì, fa niente, ma... Cioè, io sto guardando. Cioè, io mi metto tipo qua, attaccata alla... So dove l'area adesso, va bene. Io voglio andare qui, attaccata alle sbarre, trovare un buco... Mi fai un passo a mettere in mezzo qua. Puntarlo direttamente davanti alla mia faccia, perché so che questo era davanti a me. Sì, sai che lui è questo quadretto, che non puoi attaccare alle sbarre. Perché sono, ci sono i buchi, io sparo. Sì, un cambio potevi anche farlo senza le sbarre, però vabbè, fa niente. Beh, sì, insomma. Comunque, vabbè, fa niente, è uguale, passo a mettere in mezzo e non perdere azioni. Cioè, più che altro che se lo faccio da dietro dai, potrei prendere io per colpire. Quale uso? Proviamo. 19. E ti ha dato 1. Sì, però allora è mancato automatico. Perché costo mancato automatico? È così, con uno si manca automaticamente. Ma se non capisci, non fa niente. Io costo basta lamentarti che c'è una regola, basta, è quella, eh. No, sta sul cazzo. Però quando fai 20 colpisci automatico non ti vedo così lamentosa. No. Dai. No, mai pro- non ho mai fatto 20 colpito automatico. Vuoi, dai. Che cazzo vuoi? Mai sono un attacco. Lo so. Cambierò però. 6 più 18. No, 6 più 14. Mancato. Che la miss chance 50%. Un altro tiro. Stai facendo quale? 15. Two weapon fighting? Two weapon fighting, sì. 15 più 9. Cos'è più 9? Colpito. Fanculo. Allora, Cioè, non lo sai in effetti che l'hai colpito, ma... Vabbè, io tiro. Ti danno. Senti, aia, dall'altra parte. No. Allora, sono un di 8, 3 di 6. Ma scusa, ma tu chi stai colpendo? Più 8, questo qua. Ma sei nel buio? Sì. C'ha concealment, c'ha 50% di miscia. Ma non ti puoi tipo spostare qui, non sa fino. Io non lo so da dove arrivo. No. Ti devo arrivare di ma sta usando tipo le sbarre per... Beh, perché l'ha visto fuori uscire da là. Ma non so se... Ma io penso posso pensare che è tutta l'area che... Ok, cioè perché tipo lei è tipo limitare o no? Prendo lui o prendo lui, sì, va comunque bene a meno che non prendo la guardia, che cioè le basterebbe un passo da un metro e mezzo, ma un po' ci sono le sbarre, no, dico in questa direzione, sì, ma lei si ha già fatto un passo da un metro e mezzo, però ma questi due hanno agito insieme comunque, no? Certo, e allora fa lei a sapere che lui è qua, perché ho detto prima che no, lui ha agito prima di me, ho detto che vedeva diventare la nube quello lì, quindi comunque agisce un po' prima. Sì, io so che è lì. Errore mio, devo far fare prima. Sono entro 30 piedi, quindi ho anche il più 1. Sì, per quello che serve contro il già touch. Però se non sei entro i 20 piedi, sì, 6, 7, 8, 9, no, 6, 12, più 3, 15, più 4, dai, dimmelo, 19, più 8. Tanto quello che conta, non so se hai capito, ma è la mission. Fa niente, però intanto più quanto fa... Ma vaffanculo! Tutto sto casino? appena vieni qua. Ma te mi danno gli occhi. Ah no, ma gli anni prima quanti erano, scusa? Erano questi che stai dicendo? Sì, sì. Ah, ok, niente, prima hai colpito, dimmi i danni. 19 più 8. 19 più 8. Stavo sentivo per colpire. Più 8. No, l'avevo già colpito. 27, ok. Ed è perché c'è altri attacchi. Vai, posso un altro attacco. Vai. Questo. 8 più 4. 12. 12. Non colpito. Mancato. Esatto. Fine degli attacchi. 3, infatti, no? 4. No, ma guarda che ci vuole line of effect, non line of sight in generale. Cioè, a meno che non è specificato. Okay, allora serve line of effect. Vabbè. Esatto, che... Allora puoi farlo. Is not blocked from, by darkness fog. Infatti, perché ho detto... Darkness fog and other factors that limit normal sight. Ok, tocca... Aspetta, ma io ho due pistole. Tu ho chiesto se vai tu e tu hai fatto 4 attacchi o 3? A me sembra che ne hai fatti 3, però... Ne ho fatti 4, però... Cioè, sono 4... Hai già fatto... È quello con due pistole. Allora niente, vaffanculo. Ah, se ti fai a contarci 4, però... ci speravo. Sarebbe stato bello, cioè ti andavo avanti lo... Ti tocca? Sentite una presenza gassosa avvicinarsi a voi. Non disegno niente. Chi l'ha mollata? No, però tu vedi che... M si è spostato qua. Oh merda. Avviso tutti. Però da forma gassosa non puoi attaccare, quindi aspetta, aspettare che voli dismessi. Bellissimo! Che figo, che lo vedo e dico, ragazzi, c'è, una, c'è qualcuno in questa stanza. Dove qualcuno? Ma tanto anche se te lo segno non lo sai! Io devo spostarmi, no? Destra, sinistra, avanti, okay. Dietro! Una formica davanti a te. Gigante starà dicendo no, tipo... No, non posso spostare davanti qua. No, dico, ce l'hai davanti delle sbarre. C'è anche, davanti nella prigione. Ho anche un bel bonus a perception della Madonna, perché... Lo vedo. Appunto, allora... Ho fatto 4, però ho fatto comunque 20. 20 perception, me ne accorgo che è accanto a me. Sì, dai. Oh, fermo. Mi scosto schifare. Aspetta. Beh, lui non è stato molto accorto nel nascondersi, quindi sì. Comunque ti dico che è di fianco a te. Comunque lei l'ha visto, dice. Sì, lei ce lo dice. No, lei... Beh, io gli è di fianco a te. Gli mollo una sberla. No, l'ho sentito. Cioè, l'ho avvertito. Gli mollo una sberla che adesso vedi. Forma gassoso, secondo me fai così. Allora. Sai che avevo visto che c'era una... un talento per colpire anche le forme gassose, così... O Rage Power. Però non l'ho preso. Ok, andiamo a... No, così per il... sì, magari mi posso spostare qui. Perché? Dark Vision. Ma perché? No. Perché questo qua è andato qua. Sì, beh, ma tanto è gassoso. Allora? State lì, prendeteli, vi guardo. Lascia far quello che vuole. Lei vuole andare a picchiare il gas, falla picchiare il gas. Beh, magari lei può. Magari può. Chi lo sa come è fatto questo gas? Io non lo so, voi. Io li voglio star vicino. Vabbè, a questo punto se lei ve l'ha detto lo disegno lì. Sì, esatto, perché comunque lei ce l'ha detto che dentro la gabbia vicino a noi. Cioè, ci bisogna anche di fare i lati. Che bello. Ah. Le condure della vita. Fai così, Atanella. Ok, ti sei avvicinata e adesso? E adesso? E adesso? Dimmi tu. Non lo so, allora, sì, spacca. Voce però, non è che hai molte opzioni dopo che ti sei avvicinata. Eh no, perché sono... Ma c'hai tempo tu? Attacchi. Cosa posso fare? Attacchi? Attacco. Con la scimitarra? C'è tempo di... Con la scimitarra? Però volevo... Ti sei mossa? Sì, sì. Allora, cioè, un tipo reale che è spazio un istantesimo. Perché no? Avevo pensato di... Non so se tutto, si dice così, castare... in modo che non abbia attacchi di opportunità verso di me. Ma tanto ti sei... Cioè, quello funziona quando ti muovi. Con lui ormai la situazione statica, ho capito. Quindi facevo con la scimitarra. Cioè, fendi il gas. Prova a vedere. Col piranha strike o senza? Piranha. 6, 21. Ma due attacchi, giusto? Che no, uno perché... Cioè, se te ne fai due... Esatto, non però ne faccio due, ma sono due, esatto. Comunque hai più due lì perché hai caricato. Senti che la tua lama fende il gas causando ferite al... al tizio. Al Formian. 15 danni. Sì, sì, cos'è che devo fare? Scusa, che okay, hai più due? Lui mi ha detto l'impro, sta già. Eh? Beh, Sì, certo. Dovrebbe far finta di non sapere. Dovrebbe far finta di non sapere. Ok. Attaccate come se non ci fossero domani. A parte che qua non c'è scritto niente di questo, perché forma gassosa è un incantesimo da bardo. E siccome i Taskmaster possono lanciare incantesimi da bardo, fatto che l'avevano, in teoria non c'hanno un incantesimo di merda che è dopo. Ma sì, come non viola nessuna regola. Tocca a me, no? Tu quanti anni hai fatto? Io 15. Tocca a te. Dico agli altri che è possibile attaccare. Allora, compare un anchilosauro qua, ma voi non lo vedete, che è il huge. Cosa? Prima sembrava che non avessi fatto niente. Cos'è un anchilosauro? Un dinosauro? Con la coda, quello... Quello che volevi tu oggi, amore. Sì, quello del pennarello. Come? Neanche io lo vedo comparire. Si sono... Sentite tutti questa cosa. Che diavolo è quella bella? No, le guardie sono nel buio, no? Ah, avendo un T-Rex fuori dalla... Non è un T-Rex, è un anchilosauro, sei. Scusa, un anchilosauro fuori dalla... Huge 6, vero? Hai sammonato il dinosauro, lo so. Sì, 6. Giusto? Sì. E compare qua. Ancora uno. E compare qua. Più, dove avevo pensato di farlo comparire. Aspetta, 3, no, solo uno. 7, scusa. Cioè, dove ti pare fai comparire? Ma solo uno? Sì, solo uno. Perché siamo a Monster 5, però posso fare anche comparire un dado da 4 più 1. No, scusa, un dado da 3 più 1. Un dado da 3 più 1. No, un dado da 3 più 2. Forse. No, è più 1. No, perché poi ho il talento. No, ma è più interessante. Sì, è un dado da 3. Sì, un dado da 3 più 1. Quindi 2, 3. Il dado da 6 diviso 2 è rundown. Allora... Io aspetta, mi sposto con la mia swift action, con il mio teletrasporto al limitare della cella, perché il mio ragionamento è vado più lontano possibile per uscire dall'oscurità, ma senza farmi colpire dai tizi che sparano. E quindi mi ritrovo. La mia roba di Spycraft per sapere quanto è l'oscurità ha ragione. Ah, giusto! È vero, posso fare questo. No, già fatto, ho fatto tipo 30. Ah, ok. So anche il raggio? Sì, così sì. Certo. Ah, allora so che posso mettermi magari anche qua. Allora mi metto qua. E lì sei fuori. Esatto. E faccio una, a vedere. Una Stinking Cloud su di lui. Fortitude Nega. CD 22. Devo diminuirgli la vita, Davide. Date, non ho finito. Questo lo controlli? Ok, vedi che inizia a tossire e vomitare nella nube. Quindi questo non è morto. Anche l'anchilosauro? Ok, bene. Praticamente sì. È morto. Poi dico, Sodoma, fai il tuo dovere. E Sodoma casta Haste su tutti. Casta? Haste, quindi tutti fanno un attacco in più round. Poi c'è la... Ah, avevi preparato come Familiar Spell. Familiar Spell. Oh my. Quindi, allora ho fatto una Swift Action... In pratica una standard action scalava una freeze una ace e adesso c'è che esiste, adesso devo attaccare quell'anchilosauro. Cioè poteva essere il trattamento di incantesimo di Kito e essere bilanciato. No, l'anchilosauro si chiama Anchise in tutti i giochi dove io gioco. Che va su questo qui che vede, no, non lo vede. Ma Anchise non deve fare anche una, no, beh, l'hai fatta spostata, nulla. Quindi sì, lo vede. Questo qui lo vede? Ah, tanto allora va su di lui. Vai, Anchise, colpisci quello di là. Lo prende, no? No, ma anche lo sposti. Vedi. Cioè, tu non vedi benissimo, ma... Perché lo sposti? Per farlo colpire qua, perché tanto lui... Lo stesso. Ma non lo faccio colpire questo che c'ha il mille missile. No, qua lo colpisce lo stesso, mica c'ha... Cioè, no, è non c'ha una reach così lunga. Vabbè, ma tanto basso. Non fa un full attack, eh? Infatti. Cioè, lo fa, ma un solo attacco. Sa che non ci sta. È quello che stordisce. Sì. Simpatico. Potrei fargli attaccare questo? No, ma gli faccio attaccare questo, che ho visto che cazzo. Lui è morto. Ma poi lui è morto, cioè. Adesso si vede un. Infatti, Anchise fa un attacco. No, ma quindi loro non possono dismissare la gassosa. Ma cos'è sta roba? Lo può attaccare! se lo stanna, però. È quello che stavo pensando. Vabbè, tanto TS è un cazzo. Allora, somma 17 al tiro per colpire. No, perché era Anchise. 9 più 17, 26. Colpito. Colpito, e sono 3 bei dadi da 6. Cosa lo mangio? No, gli dà uno slam, boom. Una martellata. Una martellata, aspetta, sono 3 dadi da 6. Cacchio, aspetta. Anki. Chi. Ma cazzo si scrive Ankylosaurus? Ankylosaurus. Già qua sono ti testa il TS. Guarda, lo so a memoria. Sono 3 dadi 6 più 12 più Summon più Augment Summoning 2, quindi 3 dadi 6 più 14. Sono 6, 12, più 3, più 3, 15, più 14, 29 danni, più il TS, che è una roba tipo 23, mi pare, se non ricordo male, la Teofilius. Ha fallito? Dai, vediamo. Il 3 lo supera? No! Sta superando tutti. Come sta superando tutti? Anche lui prima lo supera. Ah, quello è 23. Last Will. Ok, finito il mio round, basta, non faccio più niente. Ok, basta, è finito? Sì, è finito. Ok. Toccherebbe a quello che è scappato. Tocca al barbaro, il fiero barbaro. Che inizia a nonostante non ci... ce l'hai blind fight, no. Blind fight. Catherine, che se non poteva dismessare che risate, lui non poteva attaccare, però poteva scappare. Beh, io lo picchio. Uh-huh. Perché tanto mi ha detto che lì... Ah, si scrive Ankylosaurus con la K. Colpisco una 30. Calma, mi dico io con due pici che c'è la missione. Ah, vabbè, dai. Perché non vuoi fare la fatica? Guarda, la CD è 25, Danilo. Secondo attacco. La CD era 25. Ah. Secondo attacco colpisco una 22. Prima ti avevo detto 23. Fallito. Ah, bene. Non è fallito. Quanto dovrebbe essere stannato? Adesso vedo, scusa. Un di 4. Secondo attacco una 23 ha colpito. Non mi ha detto se l'ho preso o no. Col 23. Ah no, ma aspetta, è dazzato per un round. Non è stannato, è dazzato per un round. E vabbè, comunque non può fare la cosa. Sì, certo. Mancato. Cioè, lui non agisce per un round. Hai anche un coso più. Quindi, questo sta vomitando un po' a gire. Questo è stordito, non può agire. E questo però questo è al massimo. Ma lui non può attaccare, non possiamo attaccarlo. Non so per quale tronchino. Poverino. 33 danni. Ok. Ultimo attacco. Dai, c'ho bisogno di un critico, dai. Niente, oggi non entra in 15. 23. Vedimi solo colpito. Mancato. Il dado di Agobot. No. Agobot, siamo un po' sfortunati. Con la mission. Ma stai tirando te, non io. No, a parte che manca la vita. Il dado di Agobot è questo. Mio? Cosa? Classe. Di Agobot, sono di... Agobot usavi di 6, non eri di 4. Però vedi, questo è il dado che ha fatto... Allora, quello che sta vomitando... Esce dalla nube. Paolo, okay. Mi manca le mie nubi. È vero? A me no. A me sì che manca le mie nubi. Cos'è che esce dalla nube? Basso, questo di 4. Ah, meno male. Dov'è che l'hai fatta? Vabbè, senti, va vicino. No, mica dice anche lo sao, no. Esce. Guarda, la faccio centrata su di lui in modo da non colpire anche Ise. Okay. Fate un solo attacco sul ciccio. Mentre l'altro dazzato non può fare niente, non può neanche muoversi, no? Days, no, non può muovere niente. Allora resta lì. E l'altro magari... Con sopra il simbolo del SAP, com'era in World of Warcraft. Tocca al Tengu Damasco. Non puoi farlo qua. Io lo sento vicino, lui. Ah, sì. Lo sento. Vabbè, lui che è di fianco a noi. Sì. Io mi sposto. Ok, va bene. Ero il cazzo posso vieni qui, no. Di qua. Tengu, arretra fino a me. Qui si vede. Io mi chiamo, Scusate, dov'è? Che cazzo ne so come ti chiami? Non te l'ho mai chiesto. Cioè. Aspetta, il corvo me lo dice. Damasco. Dov'è il corvo? Damasco. È lì, davanti a te. È davanti a te. No, il pennarello, raga. Cazzo di pennarello. Dove sei, Davide Paolo? Io, ah, cavolo, cancellatemi da lì. Da qua. Grazie. Ok, e che faccio? Spara! Oh, lo vedo? Sì, spara! Devo ascoltare lui, sì. Spara! Ha un elmo in testa? Ricordatevi che fate un attacco in sì, l'ho fatto. Solo che ce l'ha? Un 23, no, cioè 50. Sì, chance. Infatti ho tirato tipo 2, cioè l'ho preso sempre, ho fatto un 23. Qui c'ha 24 il volto, no, DCA, non è banale. Tutto il volto? Sì. Due coglioni. Cosa? Ha qualcosa qua sulla gola? Perché? Perché? Perché? Perché io ho i target, ti ricordi? Ma fa niente, anche se è protetto, non penso sia un problema, eh. Ma non fa. Vabbè. Vado a caso. Picchia. Prega, picchio. Tacca. Dai, che devo fare un attimo per dire cosa ho fatto. Sì, 19, critico? Tu hai tirato un 1 prima. Sì. C'è la misfire, eh. Diciamo che è stato un grit per non farlo. Segna. Cosa vuol dire misfire? Con le pistole, se tiri uno, è come se ti esplodessero in mano. Minchia. Ah, ma non una broken condition. Io mi sfermo. Davvero? Ah no, ce l'ho adesso. Minchia, che rischi. Ma è... Ma va. Però puoi usare un punto per usarlo. Puoi usare un punto di una riserva che hanno. Dal prossimo non rischi più il misfire. Dal prossimo livello. Adesso lo rischi. Talento, l'hai fatto. Una sfiga. E... Vabbè, hai dato un grip point. Segna che hai dato un grip point. Okay. Poi lo recupero dopo sta battaglia. Lo so che lo recupero. Mi sta sul cazzo. Vabbè, 19 critico? No. Con critico con 20, scusa se hai anche un per 4 il tuo critico. Minchia, solo con 4, tanto glielo faccio fare io perché ho preso apposta Kin, cioè quello che gli fa gli affili proiettili. Credi che sono 20? Sì, davvero. Gli affili proiettili! Che figata, cazzo! Se ti immagini che sei lì era figa, ho preso apposta. Allora, quindi io ho un 19 più 10 colpito, immagino. No, più, faccio un 19 più... Sì, vedi tante touch. Sì, sei dentro il primo range. Più 14. Quindi sì, colpiti, dai. Va bene, allora... Siccome... Touch, tua, se sei siccome... dentro 20 pizza sei touch tua. Ok, siccome uso Deadly Aim... Deadly Aim e tu weapon fighting, stai usando? Sì. Ho un D8 6. Più 3 di 6 più 15 più 1. Sono, 30, sono entro 30 feet, giusto? Sì, quindi ho... Ma qual è? D1? Okay. Questo. Prepariamoci nella caterva. Ricordati che se lo colpisci due volte puoi farlo diventare pro. Ho però tre... è già vomitante quello, quindi ho tre attacchi. Beh, l'ha già colpito prima. No, non era più per lui. Vomitante, ma non gli allora non più per te. Vomitante vuol dire che non può fare nient'altro. Nauseate. Giusto? Sono spostati, ma ha un attacco in più. Però ha quattro attacchi. Ma ti sei mossa, però mi sa. Sì. Ah, sì, allora un attacco solo, giusto. Vabbè, fai di vabbè, ho tre attacchi comunque. Bravo Davide, che è la storia. Non è uno. 8 8 17 bene, okay, 17 più 16 minchia 17 più 16 33 sì. Brava, no. Mi sa che critico per questo. Poi siamo a diversi. Non me lo fa trovare. Lo so, anche io noto subito. Ricerca un po' che c'è 9 più 3. Basta, quanti attacchi fai? Sei mossa. E quindi? Gli aggiungi forza, intelligenza, conferma. Ricordi che è un attacco di round completo. Serve tutto il round, poi spostarlo, sfida. Bonus intelligenza ai critici? Veramente? Non ne ho la metà? No. No, solo uno, sì, sì. Capito quanto servono spostarsi e stare fermi a sparare? Grazie al cazzo, ma non lo vedo da lì. No, fatto bene, ovviamente, però. Ma sì, è una battaglia così che siamo un po'. Ok, dopo tocca a... Sta tutti sul bagno qua. Non posso essere più. A Nube che sta lì perché non può fare niente, perché c'è qualcuno. Perché non attacca? Non può fare niente. A Nube non gli possono dismettere perché sono dazzati. Se dite praticamente che allora mi fate tornare normali qui, così normali qui. Guarda, forse gli conviene sta Nube, eh. No, perché comunque non cambia quasi un cazzo a punti di stare difesa, purtroppo. No, perché semplicemente tornava. Torna, se c'è bello, belli cartesi, ma non può attaccare. No, bravi. Vabbè, che ne sapevo anche rimanevano due impossibilità di fare tutto in un ti immagini questo, cioè, ma te cazzata, affanculo. Ma non può spostarsi? Sì, può, però lui non vi ha ancora considerato troppo pericolosi. Oddio. Ah, no, qua ho segnato male questi 30. No, sì, giusto. Sì, dai. 30 danni ho fatto, Ma poi vuole, lui è convinto che se li prende in fisico vi uccide tutti. Ah, beh, la convinzione è quello che vuoi. Tocca a quello che è scappato, tocca a Baka. Come? No, scusa, tocca a Abraham. No, tocca, ah, tocca a Ellen. Prima che non so, un po' di gente. Cioè, io si vede sulla metà. Ah. Ellen, picchia. Scusa. Picchio? Come picchi? Con la scimitarra. E cosa? Basta, puro? No, poi... No, lei lo vede. Sì, ma stavo... No, devo fare un po' di po'. Sai che puoi fare anche, questo puoi mettere dentro l'incantesimo. Ah, questo qua intendi. Beh, se vuoi farlo. Se no c'è la Burning Hanks, che mi ha di 4 di fuoco. No. Sarebbe meglio decidere prima quello che si va per non rallentare troppo. Comunque il Magus può lanciare un incantesimo insieme all'attacco di round completo. Ah, ok. Però prendiamolo due tutti per colpire. Quindi se vuoi puoi lanciare. Però tocca conto che sei a portata, ma lui non può attaccare, quindi non te ne frega niente. Ok. Questo sta lanciando questo? No, questo. Perché comunque succede? Ma no, non fai buon evento. Fai... Sono tanti. Cioè, sono uno più forte, no? Sì, questo qua è un 10. Sì, non era una battaglia difficile. Quattro, Black Tentacle no. 4, 7, 10. Sotto acido. No, erano, no, erano 2, 7, 2, 3. Dov'è che c'è quello di livello 3? Più o meno veniva 11 e mezzo. Puoi buttarci dentro un frostbite se vuoi. Sì, ma comunque ti ho detto, cioè CR è uguale al loro livello, vieni facile. Vai. O Shocking Grabs. Buttici dentro lo Shocking Grabs. Lo Shocking Grabs. E anche quando ti ho detto, ok. Com'è che sei arrivato a questo? Ok. Perché... ogni due CR uguali sono più due. Insomma, questo è più per colpire. Due CR 7 valevano come un CR 9, due CR 3 valevano come un CR 5. Fatto più o meno 26, che quindi davano come un più, erano due CR 10 praticamente, più o meno, quindi voleva dire CR 12. 26. 26 cosa? Danni? No. 26 tiro per colpire con lo Shocking Grasp, incanato una scimitarra. Mancato. Secondo attacco normale con le scimitarre. Ma è touch? No, attacco tu. Non è touch. Fallito. Terzo attacco? No, è due. No, no, me l'ha dato uno lui. Ma conta che con esta avevi un più uno a tiro per colpirla. È vero? No. Ah, no. Allora l'hai colpito. Ok. C'ha 27. Che quindi calcolo sempre i danni con la scimitarra, anche se ho ancora la sì, sono è un di 6 più 14 più. No, aspetta, è un D6. Si ricorda bene. Io l'ho fatto apposta, cioè, l'ho considerato per darlo anche ad Anchise. Però castellare di più 2 D6. Quindi sono 2 D6. Sono 3 D6 più 14. Ma questo resti 2 D6, scusa. Un corvo che fa questa magia, sono una leggenda. Benvenuto nel mondo di Pathfinder. C'è una spada, c'è le pistole e tu sono un dinosauro. Le persone come lui nei forum sono chiamate God, vedi tu, cioè fai 2 più 2, capisci che c'è un minimo di divario nelle capacità delle persone. Dillo, 23 danni. Con le Shocking Grabs. Devi spostare le pistole in mano e sono un dinosauro. E do tutti un attacco di stupe a round. 5, tu me ne hai fatti tirare 3. Non è poco, no, attacco di più su 3. Cioè, su 2 che ne hai, fare il terzo non è poco. Poi soprattutto perché ne hai 2. Comunque mettere due passaggi più, che ho fatto con te. Sì. Ah, e allora devo tirarne altri 2. Sì. Perdono. 9. 9 più? 23. 23? 3 più. Ho l'ultimo attacco che mi ha dato il list perché me l'ho fatto. Vedete com'è semplice, infatti, usa il bug. No, guarda, c'è lo Shocking Grass. Uno l'ho fallito. Non ci piace. Un altro. Esatto, così. Quante istruzioni c'è il bug? No. Quale è quelle istruzioni? Shocking Grass. Uno l'hai fallito. Poi l'altro che è minimo del bonus, cioè quello bonus più basso, e poi c'è ancora Ace, quindi c'è, ah, vero. No? C'è quello Ace e quello quello di più basso. 16 più 11. Colpito. 27. Fondo. 15 danni. Poi sapere di sera, solo uno. Uno. Fallito. Ok. Tocca a Avram. Tocca a me? Schietta. Uso questo la prossima. Sì, mi sa che te, aspetta, sto per fare la tecnica Teofilius nel fischiettare. Sì, perché se è un terzo ti conviene risparmiare. Sì, me ne sto anche tranquillo. Aspetto che li massacriate. Non puoi dismissare solo. No, però vabbè, chi se lo faccio attaccare, scusa. Ovviamente. Dismissa se no l'oscurità. Se puoi. No, non posso. Se non l'avrei fatto. Attacco. Colpisce la 32, 30, boh, qualcosa. DC25? No, no, sì, DC25. No. 4 più... più 14... 18 danni. No. Non è passato. 18 danni su T? 2. Su quello lì, lo stesso. Certo. E io non faccio niente. Perché non sto rispedendo? No, perché non ho dispel magic. Perché non attacchi questo? Ce l'ho, non l'ho preparato. Perché io ho la scuola, l'opposite school abjuration, quindi mi costa 2. Ah, cosa fa? Prepara il dispel magic. Che dispella, distrugge gli incantesimi altrui. Questo incantesimo mi costa il doppio. Dimmelo intero, no, non ce l'hai. Perché? Non l'avevo scelto. Ti costa slot di incantesimi. Posso preparare, metti 7 incantesimi di livello 3. Provo a fare due slot, mi costano per... Però non l'ho fatto per risparmiare slot e fare tante altre cose. Tanto ho più uno di Ace. E ti devi preparare prima. C'è ancora Darkness, la macchina. Colpisco una 24, cioè, sono un terzo delle mie potenzialità. Da 25 la colpivo? Sì, di slot su 7 ne ho 2, esatto. Secondo attacco. Sì, giustamente, non te li occupi per te. Minaccia di critico. Esatto. Quanto sommi? 24 più 17, meno 2, più 1. Va bene. Chi l'hai fatto fino adesso? Ho fatto dal 2 al 5. Ah, ecco. Infatti dicevo, madonna, che pipa sto barbo. Dal 2 al 5. Minaccia di critico, dai, conferma. Anzi, aspetta, ti dico vai. Il caso. Non è il caso. Secondo attacco. Forte Darkness, è veloce l'under. Colpisco Darkness, una 26. 26. Contato Ace? Sì, no, contato Ace con anche meno 2, però. 1. Niente da fare. Simone, cambia dado. Infatti con Carmelo lo volevo fare, ma perché lui aveva Dark Vision. Ma questo è sacco di dato. Carmelo era il mio precedente personaggio. Appunto, perché lo devi usare? Un goblin bidello. Non voglio che, non voglio che tu bidello della scuola. Devi usare quello. sì, ho un bidello. Niente, io continuo a ciccare. Ma noi volevamo ma c'è anche la miss chance del 50%. Non è mica sempre come quello là, che con la miss chance del 75% che uscì 3 volte di fila, vero? Nessuno sarà mai più come Agot. No, 3 critici sull'impossibilità di fare critico al 25%. C'è una possibilità su quanti milioni? No, milioni no, pochissimi. Basta 40 anni. Sì, una roba allucinante. Cioè, ha fatto 3 critici di fila. Ha fatto 3 critici di fila con un 19-20 e già. Cioè, vuol dire che ha tirato dopo 3 volte di fila. Volte... 19-20 su. Però ma 17 era forse. No, no, avevo 19-20 io. Non sì, 19-20 su 3 volte di fila. Non solo, ma Martello. Il nemico aveva un'abilità che ha 75%, anche se il critico. È un colpo normale, tutte e tre le volte sopra il 75% attirato. Ma qual è stato il bello? Tutte e tre le volte ha fatto critico. C'è tante. Cioè, ovviamente io l'ho one shottato. Esatto. Mostro. Sì, c'è. Cioè. Sul come and get, cos'è che è rimasta nel fattino di annali? Sì, non era neanche il suo turno poi. Perché lui aveva un'abilità che quando lo attacchi lo tiri attacca prima. Così. Ho un'abilità. Ma l'attacco gratis prima. Non era neanche il suo turno. Ho fatto tipo 400 danni. Tocca ai Taskmaster, il cui uno è così. E l'altro punto. Bonda. Tocca a ok, questi erano i loro turni. Esatto. Sappato. Che consiglio. Quando Chi che zampava? È il gay rogue. Minchia, Marco. Marco. 19? No. Io non sì. Colpito. Zampalo. E così è sagatura. Vediamo com'è. Quindi facciamo. Questo. 6. Penso sia un 6. No, sì, è un 6, perché è idiota, è vero, è 6, più 6, 12, più 1, 13, più 15, più 1, più 6, 13, più 16, no, questo 29, 6, no, sì, 29, vai. 29 il primo, poi... Ho un altro colpo per sì, questo. Ho 4 colpi, però ho una bella cosa. No, ne 5. Massimo del bonus. Ne 5. Ah, buono, va bene. Allora, 6 più 4. Io all'inizio, perché facciamo due attimi per colpire, se c'è una cosa fare. Sì, ma è sempre lui. 6 più 14. Se cambio te lo dico comunque. No, questo è colpito, ok. Quindi un altro di 8. Con questi. Questo qua. Magari arriverà prima o poi, no? Qua, allora. 10. 16 più 4. 16 più 4. 20. Non possono ancora dismessare. 20 più 8. 20 più 8. 20 più 8. Poverino. Poi, non può fare niente. Un altro. Sì, è bello che non muore neanche perché io lo cicco sempre. Questo ah, cacchio. Basta. 9 più 5. Preso? No. 14. L'hai preso? Perché è touch il tuo. Vabbè, ma pensavo che dopo il 15 non ci fosse niente. 8. E 6, 14. E 6, sì. E 6, 14 più 14 più 8 di nuovo. 22. E allora un altro colpo è l'ultimo. No, scusa, nei classi io ho 3 colpi qua, devi farne 5. Ah, pensavo di averne già fatti 4. Allora niente, altro qua. 12 più 4. Capito. Caso della storia. 8. Come può essere più 4 questo colpo? Cioè, è l'ultimo. È tu e con fighting, è l'ultimo. Dadi. È l'altra volta che ti ha una manciata di dadi, di danni. No, stanno anche usando il Dead Game, cioè. E il Dead Game poi lo uso. Allora, 18, bravo, grazie, più 8. Bene. Solito. 26. Ho trovato un talento per fare solito 20 con due armi, con le pistole. Perché in pratica puoi rinfoderare la pistola con un'azione gratis. No. E ha preso quel drone in modo che puoi estrarla gratis, siccome serve una mano per ricaricare sempre. Sì. In più ricarica con la free action grazie ad altri talenti. Quindi praticamente tu vedi che fa così. Così, così la praticamente bello. Puoi estrarre e rinfoderare la 6 secondi. Sì, ma cosa avevo detto adesso? 6 secondi, dai. Non so, adesso hai detto 26. Ok, ma l'ultimo 100,000 colpo io tiro e che cosa sommo? Niente. È quello che ti ha dato lui? Sì. Allora il massimo del bonus. Quindi di nuovo 14? Niente. Raga, io non funziona a E il tuo attacco più forte lo rifai. 8 più 14 colpito, bon, chi se ne frega. Mi ha detto male sempre uno sì. in più. Cioè devi rifare il tuo attacco più forte. 5, 8, 9, 10. Tiro per colpire. 10 più? 14. 24? No, fermo. No. Ho fatto. Al giro per colpire 14. Ho fatto 14, colpito, è giusto? Sì, okay. Dai, taccia, 5, 6, 7, 8, 9, 10 più 8. 18, 18 di 18. Danni. Sì. Ho anche il più 1 di East. Allora niente, basta, fine. Ha fatto 80 danni solo stato. Voglio sapere quanti danni hai fatto questo round. 100, tipo. 29. Ma non lo so, la mischance. No, perché non sono dentro Darkness. Io non sono più dentro Darkness. Arriva qui Darkness. Non ho capito, cioè si stava colpendo il boss o... No, no, ah, ok. Scusa. Il boss è ah, quello che vomita, poverino. Ah, questo è quello che vomita. 100 danni. 100 danni, tra i corati, boh, scusa, ma 123 danni. Ma scusa, ma io quando è che posso... Ah, l'ho ucciso. Ma quanti perché fa? Quindi recupero grid point. Sì, mio, mio, mio. Esatto. Mio. Perché se uccido qualcuno recupero il grid. Sproni all'omicidio. Esatto. Tutti i gaslini che si vanno dietro i topi da uccidere. Che tristezza. No, penso che debba avere un CRB. No. Squid. Ok, sono a posto. Topi no, ragni sì. Mentre gli dice questa cosa prendo il mio. Devo avere un altro che ammazza il corvo. Devo avere un CR appropriato. Faccio evoco l'anchilosauro. No, però vabbè, mi costa. Ammazzi l'anchilosauro. Questa non lo sta. Oh, no, dai, piace. Tu gli puoi far restare di amore. Hai fermo, stare. Bello. No, ma non muore lui, se viene... La nube di gas. Viene ridotto a zero e non fa nulla. Tocca Eleni. Poverino. Picchio. Poverino. Tu hai segnato un incantesimo molto interessante tra i tuoi, Non so se l'hai fatto coscientemente. Cosciamente. Vabbè. Ma perché hai dato 5 attacchi qua ne sono 3 più che ti farebbe fare perché molti io ho usato danni. Questo, no? Sono 4. Spesso cioè, tu vuoi usare tutti questi 3? Io posso ogni fare volta. Questi. Sì. Vabbè, se non ti viene in mente fa niente. Quindi cosa fai? Ma tutti e tre anche. Ah, se lo sbaglio. Okay. Perché io ho questo che è quello normale. Sì. Questo però, che è tu e con fighting, che praticamente mi dà l'attacco in più. Ed è indecisa tra però, quelli di attacchi di prima sono però penso che non possa fare. Meno 4. Sei indecisa. E invece questo è il deadly aim che mi dà. Non fare più di tutti i danni. Questo è il deadly aim. No, mi dà i soliti attacchi. Aspetta, prima di fare in defense. Sono questi? Sì. 2, ok, vai. Solo che anche qui hanno meno 4. Meno 4 rispetto a questo. 18, sto facendo. Segna più questo meno 4 rispetto a questo. Questo qua. Facevo 18 comunque. Sono gli attacchi che faccio. Cioè, se io tiro questo. Io tiro questo. Faccio 16. Il primo attacco è 18. Poi ritiro quello. Il secondo attacco è 13. Poi ritiro quello. Ah, quindi in questo caso hai scelto questo. Sì. più semplice. E poi perché c'hai questo? Potresti farlo dopo, ma fa niente. Ah, cioè, questo qua è meglio di questo sopra, perché c'è un attacco in più. Sì, e qua sono 7, come questo, però qua sono. Questo è ancora meglio, perché io qui ho un attacco in meno. E poi sono 15. Se sono entro 30, quindi tu fai sempre questo. Gli attacchi si fanno da un bonus più alto a quello più basso. Se poi faccio questo... E perché fai questo? Perché fai questo? Non questo? Attacco, vabbè. Perché questo comunque ha meno... No, aspetta, questo quanti... non ha meno attacco. I tagli sono gli stessi. Sì, no, sono gli stessi. Prende solo meno 4. Aspetta, sì, questo è meno 4. Tirare... Però aspetta, c'è anche un dado, sì. E però questo è un attacco in meno, Scusa, però sbagliate un dado da 6, sì. No, no, da 4. Bisogna aggiungere un di 6. Sì, ma questo è meno 4 di questo. Di danni da, ovviamente, cold. 10, 10, 10, 14. Prendo più 15, però. Questo qua 14 più 6, 20. Scusa, prendi più 15 e togli 4. No, aspetta, aggiungi quanti danni. Ma il livello per livello, quindi più 12 ancora. Ah, ok. Questo già molto. Non li avevo segnati più 12. E quindi poi il quinto hai fatto. Il quinto l'ho fatto, no? Perché lui ha fatto l'incontro. Quindi questo sommi 18. Sì. Ok. O però sommi 10 in questo no, caso. No, hai ucciso quello che vomitava. Se faccio da lì mi sì. Ci sono l'unico che stava per sì, togliere. Sì, togliere, potevamo togliere la nube, ma dai. Ciao. Ho fatto l'attacco in più perché lui ha ricordo perché mi ha sempre un quale hai fatto in più? Questo 10. Comunque se ti consola se non l'avessi ucciso l'avevi fatto un muro di ghiaccio dieci. Quindi non aveva line of sight. Questo di qua line of effect. È un cazzo. In effetti questo qua comunque tocca Abraham. Tocca a me? Allora anche Ise cos'è ancora 12 più 17 29 colpisce la 29 6 più 15 più 14 29 danni e tiro salvezza CD 25. Io non ho ancora agito. Una codata. Lo fallisce. Lo supera un sacco. Si 19. 25 non è poco. Minchia, non è poco. Perché aumenta anche con aumento di summon. Sì, aumenta di 2. Quindi hai fatto 29 danni. Sì. Sì, ma cosa hai segnato? Sì, ma non, quello io non ho permastan. Io in realtà non ho agito, cos'è? Cioè agito anch'ise che è un altro. Però io non agisco perché non voglio sprecare il cantesimo. Poi alla fine del turno lì va. Sì, quanti danni 29? Ma non puoi spararti senza usare il cantesimo. No. No. Tipo il cantesimo base comunque di costa. Sì, certo. Beh, c'è quello di livello 0 che non fa niente. No, certo, c'è quello di livello 0 che non fa niente, però. Tocca Baka. Se fossi Carmelo farei Ghost Sound per mettere tipo una colonna sonora rock, però non sono più così cazzone. Primo attacco. Colpisco 1.35. Non ti voglio la caramella. Bro, perché hai portato questa droga? Un attimo. Sono troppo buone. Sì. 33 danni. Io vado per le caramelle veramente. Secondo attacco con Ace. Possiamo stare, ce l'ho mai in casa mia. Ah, le licris. Cioè. È bello che se voi uccidete i Taskmaster, no, beh, si dissolve automaticamente l'incantesimo. Ah, sì, 29. 29. Ma scusa, ce ne saranno altri vivi, no? Sì, ma... Ah, no, tra l'altro... La ragazza è quello stato che l'ha ucciso! Quindi si è tolta la nube adesso. Perché l'ha ucciso lei? Eh sì, era quello che era lì vicino. Quindi lui agiva, no? Finiamo tutto turno, poi li picchia. No, fallo picchiare perché io sai che c'ho il Kamen Gap, magari faccio tutto. Se ne picchia e lo uccido. Ti hai ammazzato quello. Se lo uccide, non lo uccide prima di questi danni. Pronto. Stavo pure vomitando. No, neanche se clicchi, muovi. Sì, ma Danilo si diverte un po'. 29. Allora, Danilo non ne poteva più di non agire mai, perché era o vomitavano o erano stannati. Sono 31 danni. Oppure scappavano, perché quelli lì che sono scappati, bene. Secondo attacco. Tornata tra un po'. Sì, ma sei torna. Questo non so. Faccio tornare. Una battaglia. 26. No, 27, scusami, con lei. Capito. Oh, cioè, passiamo da non compiere mai a colpire sempre qua. 31 danni. Bam. Anche lui. Ultimo attacco. Ho cambiato dado. Si vede, cazzo. Ma questo ho compiuto solo un 20, ho dato un 6. Ora, lui che è tornato, adesso vi faccio vedere io, perché non aveva ancora pigliato 90 danni di Baka, no? Quindi, questo che ho senso prima. No. 90 danni di Baka, così, tra esatto, aspetta che lui c'ha il coming game. Se la prende con col barbaro, perché non, non gli ha ancora fatto così male, no? Giusto. Quindi Kamen-Get prima di litigare. Kamen-Get mi vai. Lui che risponde prima di 30. Colpito. Anzi, 31. E devi fare la mischance. Bravo. C'è la mischance, scusa. Cazzo. Guarda. 2-4. 34 danni. Ci aveva portato a capo. 34? No. perché sono 36. No, 26. 26. Cioè, quindi dagli tira così da sforzo. Tranne di livello A. Esatto. Tranne tipo alcuni che hanno le manciate di dadi, no? Tipo, che arrivano a tirare una roba come 40, 26. Come quella volta là. Bellissimo, è stata una mozione pazzesca. Come è messo, mio amico? È messo come dico io. Sentiamo. È messo come dico io. Metti a video round diga, se no 24 più 30 di solito, vabbè, ma il mouse mi faccio un mouse sul mio gomito 30 danni come Carmelo va 1-4 avevo fatto 1 più 30 31 e infatti Carmelo era specializzato in ciò, sì, perché aveva spesso il frostbite che è molto grande. No, è ancora vivo. Più o meno. Ah, questo cosa siamo qua. Già alla è ancora vivo. Più o meno. L'ha mai attaccato. Ma è ancora vivo. Sono andati 50 attacchi di fila, ma ha detto che questo pungiglione, mentre lui prima di prendersi, cioè no, dopo se si prende. C'è pure pungiglione. Questi qua, ma prima di prendersi gli altri, gli altri 80. Esatto. Colpisce Bata, forse. Sì, direi di sì. Colpisce una 29. Colpito, più di 20 colpisci sempre con me. Vai sul tranquillo. Vuoi un dado? Adesso lo trovo. Dimmi cosa devo prestarti. No. Zotto. Allora, di 8 più 5, 3 più 5, 8. 8 danni, più 1, 9. C'è la canzone. Poi? No. Poi usai... Ah, fai un tiro salvezza a Fortitude. È vero, ma chi è che l'ha fallito prima di essere Fortitude? Lei. Ma mi hai già dato i danni. Eh sì, ma c'è ogni round che devi fare la prova. Ah. Il giorno dopo. Cosa non sapevo. 21. Ah, sono indicato io. 21? Tu sono superato. Superato. Anche quei nuovi danni. Sì. 21. Colpito 8 danni. Segnali però, eh? Sto segnando sulla calcolatrice. C'è da mangiare dash, tu ricordi? Lo so. Colpito ancora. Fa PS? No. Okay. 9 danni ancora. Mm. E finiti da un morso. 9-10 danni. Prima comunque ho sbagliato segnare, quindi altri 2 sono 12, 12 adesso. Mm-hmm. Ok, 43 danni sulla testa. Ok, le spariscono appena. Ah, è vero, perché tu con l'ira c'è quelli temporanei, figo. Sì, ma non spariscono, No, lo so. Ah. Ce li ho quando ritorno in Liga e soprattutto ce li ho. Perché non sono temporanei. No, lo so, Va bene. Cioè, però ce li ho su, però. Quindi, tocca al Taskmaster che è ancora razzato per via del coso. E ora tocca a Damasco. Spara quella roba lì, dai. Sì, infatti. Che ma è nell'oscurità, no. C'è la mischance. Ancora? Ma non è una tolta? No. Vabbè, tu spara. Sembra che come se non ci fosse, perché ho tirato sempre sopra il 50 con lui, però c'è. Vabbè, tanto. Vabbè, scusa. Fai 1000 attacchi, un po' di ma me ne hai schivati 3 o 4. No, se tiri dritto avanti a te, al massimo non lo colpisci, ma non riesco a colpire. Vabbè, colpo. Che mi sembra che stanno... Allora, però... faccio... Ok. Mentre la battaglia volge al termine... Aspetta un attimo. Mentre la battaglia volge al termine, la vittoria sembra sicura. Notate che nell'altra gabbia le cose non sono esattamente, cioè nell'altra metà della gabbia, no, dove ci sono gli altri, le cose non sono così rose, no?

Ma lui ne ha ammazzati 10.000 video là. No, un po' meno, perché comunque sono ammazzati un po' più. Però non è rimasto quasi. Ah, è vero, potrebbe quasi essere libero. Sì, comunque sì. Quasi. Ci manca giusto 5. Ci mancano i nostri. Noi. Scusate, ma... Quindi, prima che voi abbiate modo di rispondere di qualche cosa, il vecchio inizia a intonare: le dune del diavolo verranno di nuovo solcate. Le dune del diavolo verranno di nuovo solcate. Poi un po' di volte, no? E vedete che attorno a voi compaiono centinaia e centinaia di rune che erano in tutta la stanza. Fate una prova di spellcraft. Cazzo, ho fatto tre. Dai, figa, voglio dirvi com'è successa sta cosa. Cioè. No, ma che cos'è, fatto tre. Però può farlo anche io. Io 4. Spellcraft è spinta magica. Ah, okay, sì, comunque sì, faccio 22. Anche con 3. 10. Garo 1. Con 22 basta. Quindi. Dai, basta. In pratica, intorno di tutto il... Capisci che tutta la piazza era cosparsa di diversi incantesimi permanenti mage che celavano queste rune che erano sempre state lì. Queste rune, tra l'altro, sono... dei symbol, dei symbol of weakness, no? Oh. E fanno 3 dadi da 6 alla forza con DC Fortitude. Il problema è che dovete farne tanti DC Fortitude, quindi verosimilmente cadete a terra tutti. Scusa, fammi capire un attimo, noi ci siamo sopra? Sì, siete tutti intorno. Sono i symbol of weakness, no? Che hanno un certo radius, entro un certo radius fanno 3 dadi da 6 alla forza con una DC abbastanza alta per negare. Cioè ci stordiscono? No, sei tutti... tipo debolito. No, sei a forza zero, quindi sei in coma praticamente. Ma ok, quindi una volta che si tolgono questi veli entrano in azione? Sì, perché finché non sono visibili non funziona l'incantesimo. Perché sarebbe fatto perché così uno non può nasconderlo e uno ci capita sopra. Ah, che carino. No. Invece se però sono visibili invece funzionano, cioè di fronte appena uno entra nell'area, voi siete già nell'area. Bello. Ma che la giorno si così? Una sessantina di feet ciascuno, tanti. Ce ne sono tanti, quindi ce ne, tra voi ce ne sono non 100, ma ce ne sono una decina. Comunque la DC è abbastanza alta, verosimilmente. Sì, sì, non è solo ai bordi della piazza. Se volete potete provare e poi affrontare il vecchio che... No. Diciamo di svegliare. No, vi dato, perché sì. Però, nel senso, io non lo consiglio. Ok. Intimidazione. Ah no, poi ho scritto questo. Cioè, vediamo, potete provare. Io ho scritto quello che fa se qualcuno supera BTS e prova di solo. Supera cosa? Proviamo. DC Fortitude. Dovete farne 10, cioè, nel senso, vedete quanti 10 tiri? Sì, e dovete fare devi superarli 30 occhi. Vabbè, okay, un tiro. Cioè, in un tiro. No, dovete fare 10 quanti. E vedere con quanti superate la DC Fortitude 30. 23. Capite già che con una DC Fortitude 30 se li ha fatti lui, comunque somma tanto. Immagino. Comunque non tiro perché io ho 7 di forza, cioè basta che ne fallisca 2-3. E lui le sono svelate. 27. Sì, certo. Minchia, 29 ho fatto. Non hai detto che l'aveva fatti lui. Ho superato 1, 2. Ah, capisci che tra l'altro, cioè diciamo che quella lì è la fase, di attivazione per togliere il permanente. Cioè, dune del diavolo. Ah. La fase per togliere, cioè il trigger per togliere la permanente. Capite. Ne ho superati 5 per ora. 20! Basta. Fermi. Superati okay. 5. No, 20. Però fatto superare. Allora resti su magari. Quanto? Lui ne ha superati 5 su 10. Perfetto. Ma vaffanculo. Cazzo, mi hai superato 1. Sì, lo so, ma tanto. Più che altro per quello. Non perché così è speranza. Niente, 29. Avete un altro di 6? 31. Eh? Avete un altro di 6? Sì, qua. Chi è che ha superato un numero decente? Io 31 ho fatto. Io ho fatto 31. Quanti ne superati? Ah, no, ne ho superati 7. No. Ah, ne ho superati 7? Cioè, ne ho fatti 7. Ne ho superati 3? Sono 7? No, no, alt! Questo è l'ottavo. Ha superato solo cioè, uno. Ho superato uno solo. L'ottavo. Ha festeggiato perché ha superato 1. Ah, ok. E insomma, 11 ha fatto 20. Ah, devo farne ancora? Sì. Ho fatto l'ottavo, 9, 10, 11, 3. Puoi fare ancora 19 o 20. 14? No, 8. Solo uno ne superato. Dai, niente. Allora Simone, vediamo quanti danni alla forza ti vengono fatti. Da lui? Sì. Perché ha provato a ribellarsi? No, perché ha subito questi danni. Ah. Però, cioè, loro non li faccio, non mi serve. Tanto sono tanti. Ma io sono in Iga a questo punto. Sì, sì, certo, vabbè. Così più divertente. 10, 14. Sono 3 di 6 ogni 5, non è facile. Devo tirare al basso. Sono già a metà. Cioè, 3 di 6? Eh sì.

il muro di sabbia è molto lontano, dove per questo non dovevate capire se era una nave, però nel senso, e sfracellarsi contro la sabbia. Non la vedete sfracellarsi perché è abbastanza lontano il posto, però sì, inghiottita. Non lo vedo più. Va benissimo. Cazzo. Questo è strano. Beh, allora capo, vediamo di metterci. Devo fare una prova per capire, no. Puoi fare, per capire cosa, dipende. Che cosa vuoi capire? Per capire che cosa potrebbe portare mai nella vita una nave a precipitare dall'aereo. Dal cielo. Piovono navi. Beh, lui, boh, non so, Aerin ha pensato che ti ha fatto un bel salto, poi chi lo sa. Cosa so invece io sulle leggende Sully, essendo anch'io Sully? So qualcosa... Dipende da quanti gradi della tua conoscenza locale. Ovviamente zero. E allora è un ignorante nella tua tribù. So tutto delle conoscenze locali. Vuoi chiedi a me? Cosa si diceva nella mia tribù? Hai qualche dubbio sulla tua tribù, caro? No, nessun dubbio. La via sono documenti sa, che sono stati ritrovati da poco e tenuti segreti dal... Da un impero di Smeraldo che hanno voluto divulgare la presenza di zone molto ricche di risorse agli imperi concorrenti. Purtroppo diciamo, non ho memoria delle leggende del mio popolo su questa strada. Però chi conosce il Sul magari torna utile in questa. Posso fare una prova? Ah, perché scusate, una cosa che non vi ho detto, che non vi ho detto io, che i Sul a quanto pare si erano spinti in questa zona del deserto e hanno trovato cose, da lì salgo i loro scritti, ovviamente. Cioè, okay. Cioè loro a quanto pare ci sono arrivati a questa terra che sta oltre questa zona imperia. Ah, oltre diciamo l'inferno. Certo. Figo. E non hanno scritto cosa c'era oltre. Ha scritto che c'era una zona altissima, fighissima, tutto quello che è giusto, sì. Basta leggere. Facile. Sapessi leggere. Ti insegnerà il corpo. Ti insegnerà, non so. Va bene. A leggere il suo. Va finisci. Figo.